Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento per questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto con noi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, siamo a ridosso di due pagamenti che mettono un po' i brividi, anche perché comunque bisogna stare lì a calcolarseli, bisogna entrare magari nei siti delle città. Ci sono alcuni comuni insomma che mettono a disposizione delle cose che ti fanno il calcolo automaticamente o quasi, e altri non lo so. Insomma, io parlo per esempio per il comune di Padova, nel sito Padovanet si va lì, metti i dati della tua casa e in 448 hai quello che devi pagare come TASI, però insomma sono sempre rogne, no? Sono sempre rogne, Francesco, perché questa è una delle tasse, credo, che per la maggior parte delle persone la possono trovare tra le più odiate, e certamente quando sei da pagare tasse sulla prima casa sappiamo tutti che con i sacrifici che ci sono per poterla fare, i mutui da pagare, gli interessi sui mutui, per pagarci anche le tasse, non è mai un momento piacevole. Soprattutto non è mai un momento piacevole perché si presenta sempre poi nei mesi come giugno e dicembre, dove le persone cominciano anche a sperare alle ferie o cercare di organizzare magari qualche giorno di relax, e purtroppo ci si ritrova di nuovo in coda negli uffici o nelle banche a pagare questo famigerato F24 relativo all'IMU o alla TASI. Uno riguarda l'IMU la seconda casa, la TASI, i servizi indivisibili sulla prima casa, con poi l'aggiunta che ogni anno c'è sempre un nuovo governo che pensa di cambiare nome, perché già si parla per il prossimo anno di chiamare la local tax. Sì, a me viene in mente una cosa, per esempio, che ci sono alcune case che hanno il valore catastale basso e che non pagano la TASI, essendo prima casa, essendo il valore catastale inferiore a un tot, no? E altri che, ahimè, come sottoscritto, hanno una casa normalissima e che hanno un valore catastale alto, perché quello mi sono trovato quando ho acquistato casa, e mi devo pagare una signora TASI anche se non lo meriterei. Sì, e poi ti dirò, Francesco, che c'è i casi più frequenti di persone che lamentano anche di essere proprietario di una casa di cui il padre gli ha dato il comodato d'uso e di cui il padre deve pagare la seconda casa, e loro, benché ci vivono, hanno la residenza, non possono contribuire a beneficiare delle agevolazioni che sono previste per la prima casa. Allora, innanzitutto dobbiamo ricordare agli ascoltatori, il 16 giugno è una scadenza per 19,7 milioni di italiani che sono proprietari di prima casa, e per oltre 25 milioni di italiani che magari posseggono altri immobili oltre la prima casa, di cui possono essere pertinenze, garaggi, seconde case, eccetera, o capannoni, attività commerciali, quindi un bel po'. Si stima che sia anche un'entrata per il nostro governo molto molto appetibile, perché qua parliamo di 12 miliardi di euro. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che questa è stata una tassa istituita inizialmente sulla prima casa dal governo Monti, poi modificata dai governi successivi, in coincidenza con quello che è accaduto con Monte dei Paschi di Siena, di cui ancora una vicenda poco chiara, ma che comunque ha visto gli italiani a dover pagare tasse sulla prima casa. La cosa più incredibile, ed è quella dove noi anche puntiamo un po' il dito perché la riteniamo un po' anche scandalosa, che non basta fare i soliti calcoli come ogni anno e pagare il 50%, ma dobbiamo anche stare attenti che i comuni che non hanno deliberato e che lo faranno entro il 28 ottobre si troveranno pertanto i cittadini a dover pagare eventuali conguagli o differenza il 16 dicembre. Quindi non si può mai stare tranquillo, il rischio di sbagliare purtroppo ci viene sempre proposto proprio per arricchire poi chi andrà a controllare se i pagamenti e gli importi sono corretti. Quindi sempre balzelli molto molto complicati che non agevolano certamente la vita del contribuente. Sì, infatti non capisco perché ad alcuni magari la TASI arriva a casa e alla stragrande maggioranza no, anche questo, insomma, o tutti o nessuno, mi verrebbe da dire. Però anche qua la burocrazia ha delle cose che sono un po' inspiegabili. Sì, dire un termine soft come avete utilizzato tutta inspiegabile, io direi anche qualcosa di peggio, ma mi trattengo, ma è vero che comunque se arriva a casa, poi la casa, non arriva a casa il calcolo dell'IMU, poi la seconda casa. Ci sembra quasi che ci sia una volontà di non agevolare certamente le cose a nessuno. Certamente poi, per quanto riguarda le medie che le persone andavano a pagare, si è stimato che per quanto riguarda la TASI siamo in circa 180 euro all'anno, per quanto riguarda l'IMU circa 866 euro all'anno. Treviso e per le città, anche che bisogna dire, nelle medie paga un po' meno rispetto ad altre come Torino, dove pagano molto di più. Mi viene a ridere quando mi dicono che la TASI è una tassa legata ai servizi indivisibili, come il mantenimento delle strade, delle siepi eccetera, quando chiunque di noi può vedere come le erbe sono alte, le aiuole hanno i cespugli e le strade sono piene di buche, quindi in realtà questi soldi non si sa veramente per cosa vengono utilizzati. E da ultimo ricordiamo che i comuni che non prevedono le agevolazioni applicano il 2,5% della rendita catastale, mentre se ci sono agevolazioni possono divertirsi ad arrivare fino al 3,3% sulla rendita. Ecco, quindi informatevi bene presso il vostro comune, avete ancora pochi giorni per entrare in possesso del vostro F24 e, ahimè, versare il contributo allo Stato. Rido perché sono un po' risate amare, se vogliamo, sì. Ma questo... E poi Francesco, in questo caso possiamo augurare buone code a tutti. Ecco, c'è anche quello, sì, perché poi effettivamente uno si ritrova sempre all'ultimo momento a fare i conti e queste cose qui. Dovrebbe veramente cambiare il modo, le modalità di pagamento e tutte queste cose qui, anche se tuttavia qualcosa si riesce a fare anche con internet, attraverso i pagamenti online, insomma, in quel senso provate qualche giorno prima, non aspettate l'ultimo momento, perché anche lì la rete magari si intasa. Grazie all'Adico che sempre puntualmente, insomma, ci fa presente, ahimè, anche queste cose. Ricordo associazionedifesaconsumatori.it, il sito dell'Adico. Con te Carlo, l'appuntamento è fra un paio di giorni. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.